sordo come nazione e non ha alternativa, solo azione decisiva. Chi la non può uguaglione può essere una signora, chi la non può uguaglione creerà ancora l'amore. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri? E tutti altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa! Lunedì 14 settembre alle ore 17:37 circa, quindi con buoni 7 minuti di ritardo come al solito, non volevamo perdere l'esercizio. Ci ritroviamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa per una nuova trasmissione di Impatto. Ricordiamo che Impatto è la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività ambientali, ormai su da questi microfoni da circa 4 anni. E quindi andiamo a dare la scaletta di oggi, lunedì 14 settembre. Oggi quindi ricominciamo, quindi riprendiamo dall'estate e quindi abbiamo un sacco di cose su cui fare il punto, quindi faremo un attimo un excursus per quel che riguarda la mondezza intorno a Roma. Abbiamo quindi una serie di aggiornamenti per quel che riguarda Albano, la discarica e il progetto di inceneritore. Ospiteremo poi una corrispondenza da Guidonia, perché il 16 settembre, quindi fra 2 giorni, ci sarà un presidio contro l'autorizzazione integrata ambientale del TMB. TMB nel parco dell'Inviolata. Ci agganceremo poi alla corrispondenza che abbiamo tenuto poco fa sulla mobilitazione degli operai AMA per parlare un po' di notizie legate a l'AMA. All'azienda municipata ambiente di Roma. E poi chiuderemo con una notizia internazionale per quel che riguarda un sito di stoccaggio di plutonio negli Stati Uniti di cui avevamo già parlato l'anno scorso. E allora, insomma, oggi riprende la stagione di Impatto, voci contro le nocività, dopo la lunga pausa estiva. E riprendiamo questa trasmissione dai microfoni di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che, insomma, Radio Onda Rossa, il numero di telefono 06 49 17 50 per chi volesse mettersi in contatto e comunicare con questa radio. E ricordiamo anche che, insomma, Radio Onda Rossa vive delle sottoscrizioni di ascoltatori e ascoltatrici, e quindi il conto corrente postale 6180 04 001, intestato alla Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma, per insomma fare in modo che Radio Onda Rossa continui a trasmettere libera nell'etere. E diciamo che, insomma, da quando ci siamo lasciati alla fine di luglio, parecchi avvenimenti si sono susseguiti in questa regione, che insomma investono comitati un po' sparsi in tutta la a Roma e in tutta la provincia sulle solite questioni legate ai rifiuti, e insomma capiremo come riprenderanno anche le iniziative, le mobilitazioni proprio per impedire che altri disastri vengano commessi sul nostro territorio. E proprio per questo insomma ospitiamo una corrispondenza da Guidonia, perché insomma il prossimo 16 settembre a Guidonia ripartono le mobilitazioni proprio contro il sito dell'Inviolata, dove insomma si cerca di portare a termine un progetto con cui parleremo poi più tardi con chi se ne occupa e chi sta sul territorio. Per quello che riguarda Albano, insomma, ci eravamo lasciati con questo lungo periodo di stasi relativo alla sentenza del ricorso al TAR fatto dalle aziende di Maglio Cerroni per la sospensione dei fondi pubblici che servivano, che servono per portare avanti il progetto di inceneritore di Albano. Le aziende di Mario, il ricorso di Mario Cerroni è andato a buon fine e la convenzione preliminare che era stata annullata dal GSE e il Ministero dello Sviluppo Economico è tornata valida, e quindi insomma ci si ritrova in una situazione che è quella che si è vissuta per tantissimi anni ad Albano, con fondi pubblici in teoria a disposizione dell'azienda per costruire un arnese che non serve a niente, a nessuno, se non a Maglio Cerroni e alle sue, a gonfiare insomma il suo portafoglio. Quindi si fa un passo indietro purtroppo rispetto alla piccola vittoria, che è anche durata insomma dal punto di vista temporale veramente poco. Questi fondi pubblici non sono stati nella disponibilità di Maglio Cerroni per circa 4 mesi, ma comunque i problemi intorno al progetto di inceneritore sono ben altri, perché insomma di quei fondi il consorzio Coema non ha nessun diritto, visto che doveva cominciare i lavori molto tempo fa e non è riuscito a portarli avanti per tutta una serie di motivi, e adesso insomma pretende che si continui a finanziare un progetto di morte che oltretutto non ha nemmeno i requisiti amministrativi per andare avanti. In questa situazione di insomma di stasi e di attesa rispetto ai fondi pubblici, durante l'estate è spuntata fuori una bozza di decreto attuativo legato allo Sblocca Italia, che prevede insomma prevede questa bozza di decreto la diciamo la il rilancio delle tecnologie dell'incenerimento dei rifiuti. L'unica cosa chiara della bozza di decreto sono le tabelle, queste 3 tabelle che parlano degli impianti già esistenti e funzionanti. Un'altra tabella parla degli impianti autorizzati e non costruiti, e l'ultima tabella parla di 12 nuovi inceneritori. Sicuramente una bozza di decreto che insomma va rigettato con forza, perché insomma 12 nuovi impianti di incenerimento in una situazione come quella italiana, dove si sta facendo di tutto per cercare di mandare del combustibile, quindi della monnezza, dentro gli inceneritori già esistenti. Quelli autorizzati e non costruiti hanno il problema che insomma non hanno il carburante stesso per andare avanti, e soltanto l'iniezione di fondi pubblici può permettere che questi progetti si compiano. I 12 progetti nuovi sono assolutamente allucinanti, anche alla luce del fatto che all'interno anche delle istituzioni europee rifinanziare queste tecnologie non è proprio una cosa molto gradita, e si preferisce insomma concentrarsi su altro tipo di tecnologie. Insomma, abbiamo stato tutto il 2014 e gran parte del 2015 abbiamo parlato del biometano, del biogas e delle questa nuova green economy che si affaccia e che cerca insomma di farsi strada proprio nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Sicuramente ne torneremo a parlare, perché appunto non mancheranno iniziative proprio su questi progetti, che poi tra l'altro non sono tantissimi, non sono poche decine, ma parliamo di centinaia e centinaia di progetti in tutta Italia. La bozza di decreto attuativo lo scorso 9 settembre è stata discussa in una conferenza Stato-Regioni in cui insomma dovevano insomma bisognava capire che aria tirava rispetto a questa proposta di decreto. Le impressioni che vengono fuori da questo incontro non sono molto chiare e soprattutto non sono molto chiari il sistema che si utilizzerà per finanziare tutta questa e rilanciare tutta questa tecnologia. Quindi è evidente che bisogna tenere alto l'allarme rispetto al progetto di inceneritore d'Albano e rispetto a tutti gli altri progetti di inceneritore autorizzati e non costruiti oppure ancora non autorizzati che però si favoleggia di voler mettere in piedi. E proprio per questo e per anche le insomma dolorose vicende legate alla discarica di Roncigliano, che insomma ormai il settimo invaso è sempre più colmo di immondizia e quindi le conseguenze sanitarie nel territorio si fanno sempre più pesanti e le conseguenze anche dal punto di vista odorigeno della puzza si fanno sempre più pesanti. Proprio per tutti questi motivi il prossimo venerdì 18 settembre alle ore 17:30 ci sarà un presidio per fare il punto della situazione sotto al comune di Albano Laziale e quindi insomma ricordiamo questo appuntamento, lo ricorderemo anche alla fine della trasmissione, per venerdì 18 settembre presidio sotto al comune di Albano per alle ore 17 per fare il punto della situazione proprio su tutte queste vicende che si sono accavallate durante questa lunga estate e anche insomma la necessità magari di rilanciare iniziative e mobilitazioni proprio per far chiaro qual è la volontà popolare rispetto alla gestione dei rifiuti almeno nel territorio del bacino della discarica di Roncigliano. Allora noi con questo andiamo a un'altra canzone e poi torneremo con Guidonia e le novità dal territorio insomma sempre della provincia di Roma. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air, I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Vibrations a half man with her. Gotta keep those love good. Vibrations a half man with her. Gotta keep those love good. Vibrations. Mm-hmm. Allora, prima di chiamare il compagno da Guidonia per parlare della situazione del TMB nel Parco dell'Inviolata, diamo un po' qualche piccolo approfondimento per quel che riguarda i decreti attuativi dello Sblocca Italia. In particolare ce ne interessa uno, quello per quello che tratta di incenerimento di rifiuti, perché il PD sotto la guida del magnifico Renzi ha scelto appunto questa linea per lo smaltimento dei rifiuti. Il decreto riporta nelle svariate tabelle, alcuni sono gli impianti autorizzati, altri gli impianti da costruire secondo loro, e appunto, come dicevamo, prevede 12 nuovi inceneritori. Per quel che riguarda la regione Lazio, nessun nuovo inceneritore, perché si dà per scontato in questo decreto che sia l'impianto di Malagrotta funzioni a pieno regime, a gonfie vele, sia che l'impianto di Albano sia pienamente autorizzato tranquillamente e finanziato, nonché probabilmente in costruzione. Ma, no, probabilmente pensa il governo Renzi, ci pensa che è già costruito. Sì, perché alla fine dalle sentenze ci risulta che l'impianto sia stato aperto circa 4 anni fa, per quindi a questo punto dovrebbe già funzionare e rombare. In realtà ci sta solamente un gran cumulo di terra, neanche mai smossa, vicino ad una discarica vomitevole. Il decreto blinda tutti gli impianti in funzione, autorizzati da costruire come ci pare a noi, tutti gli impianti come insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale. Peraltro viene fuori che la raccolta differenziata deve essere funzionare all'incenerimento, la quota che sarà fissata è di circa il 10% di raccolta differenziata da incenerire a prescindere, quindi stiamo parlando di 205.000 tonnellate solamente nel Lazio, poi abbiamo altre 19 regioni. Sono state blindate le quote di CDR e di CSS a quelle del 2013, indipendentemente da quanto si ricicli. Nel Lazio addirittura, con gli inceneritori rombanti di Malagrotta e Albano inseriti nel calcolo, staremmo al di sopra di 53.000 tonnellate per quel che riguarda le potenzialità di incenerimento. Ma dividendo l'Italia in tre zone, nord, centro e sud, si fa risultare un fabbisogno di incenerimento di 634.000 tonnellate nella sola Campania. Peraltro ci agganciamo appunto con l'intervista che faremo tra poco con Guidonia. Tra l'altro, dai calcoli, se abbiamo letto bene, vengono scorporate e sottratte le quote di rifiuti che finiscono nei cementifici, quindi si dà già per scontato che una certa quota di rifiuti venga bruciata nei cementifici, come quello della Buzzi Unicem di Guidonia, che è legata poi al piano di costruire l'impianto di TMB e alla cementificazione sempre nella stessa zona. Sì, tra inceneritori, cementifici, impianti a biomassa, a biometano e discariche, non capiamo assolutamente dove si andrà a prendere tutta questa immondizia, tutto questo carburante per mandare avanti tutta questa quantità di siti, di proposte, di progetti, di impianti. Basta che fai degli sgravi fiscali a chi fa pacchetti di plastica o altre schifezze, produci più plastica e imballi uno stracchino in 20 kg di polistirolo e vedi come la produci. Beh, non è proprio così. Abbiamo letto anche che i rifiuti, la produzione dei rifiuti per colpa della crisi continuano a diminuire anche nel 2014. Ma noi ci impegniamo, ne produciamo di più di Mondezza. Certo. E quindi insomma c'è una grossa contraddizione anche dal punto di vista economico di uno sproloquio che vuole addirittura 12 nuovi impianti, quando quelli esistenti faticano a camminare e quelli autorizzati faticano a essere addirittura costruiti. Logicamente la volontà del governo Renzi è di continuare a foraggiare gruppi imprenditoriali squali e squaletti che insomma fanno, si arricchiscono poi su invece la devastazione dei territori circostanti, perché insomma di questo stiamo continuando a parlare, e in perfetta continuità con i governi precedenti tenta ancora queste strade insomma diciamo obsolete, che speriamo ben presto insomma finiscano e scompaiano. Allora ci proviamo a mettere in contatto con Guidonia e ci risentiamo a tra pochissimo. Quindi rientriamo in diretta perché siamo riusciti a metterci in contatto con Guidonia, ci senti? Sì, perfettamente. Allora, qua leggo dal vostro comunicato che avete indetto per il prossimo 16 settembre presso la sede regionale di Via del Giorgione 129 a Roma, un presidio contro la conferenza contro l'autorizzazione integrata ambientale che dovrebbe essere data alla TMB e all'inviolata di Guidonia, dovrebbe essere concessa dalla conferenza dei servizi che si riunirebbe quel giorno. Sì, esatto. Quindi insomma